circostanza, senza che sia stato mai chiaro abbastanza. Sguardo assente, sorriso velato, che nasconde il più sporco reato. False promesse, sempre le stesse, tutto dovuto niente di sbagliato. Rabbio, orgoglio, ma poi sbadiglio che abbaglio. Sono vivo per rimanerlo. Mi sfendo. Sale, sale, è un brivido freddo. Su quel giornale è col povero Cristo che non vuole sentire ragione, schiavo senza una condizione. Porta via tutto con arroganza, ostentando la propria innocenza, consumando ogni buona speranza, superando il limite della nostra pazienza. Fuori controllo si va e si viene, fuori controllo forse conviene, fuori controllo ma chi mi tiene? Fuori controllo tutto normale, fuori controllo non sto così male, fuori controllo la luce si spegne.